ringrazio anche Andrea Scassina che mi presenta. Sì, grazie. Vi porto anche un cordiale saluto dall'assessore. Io volevo cogliere l'occasione anche per segnalarvi le altre due iniziative, quelle di martedì 25. Spostiamo a martedì visto che c'è lunedì 24, quindi la chiusa al pubblico, con un libro di Alessandro Tamburini che sarà presente con noi, quel che so di Adonai. E poi giovedì 27, quindi due giorni dopo, verrà Scaramaschi Renzo, ex City Manager di Bolzano, che presenterà il suo libro Per Mandi e per i Fuggi in Alto Adige, una nuova edizione. Ancora tante grazie della vostra presenza, io scappo perché ho ancora una giornata particolare per me. E quindi ci vedremo con più calma le prossime iniziative. E forse ne avremo ancora una, ma è ancora tutto da definire. Arrivederci, professor Capo. Grazie, la sera. Sì, ma io sono Trevisan Valeri, la direttrice della Trevisan Valeri. Ma le donne non sono abituate a presentarsi, sai? Non sì, certo. Io sono qui, sono già. Sì, è un po' brutto parlare alle spalle. Dai, adesso vado a brindare con la grazie Sandra. Buonasera a tutti, io scusate se vi parlo di spalle, ma avrò bisogno di stare al PC per far scorrere le immagini. E ringrazio la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta per l'ospitalità. Andiamo ad iniziare. Allora, questo libro, dalla Tetide alle Dolomiti. E che cos'è prima di tutto la Tetide? La Tetide è un antichissimo oceano scomparso ormai da decine e decine di milioni di anni, nel quale si formarono le Dolomiti. Ecco quindi questo titolo un po' singolare, un po' particolare, comunque che appunto che in qualche modo identifica una successione temporale dalla Tetide alle Dolomiti. E dunque, perché questo libro, perché questo titolo? Beh, prima di tutto perché viaggiare nel tempo è sempre stato un mio sogno. E l'idea appunto di poter viaggiare nel tempo mi ha sempre affascinato e trovo entusiasmante la possibilità di poter visitare il passato del pianeta Terra, osservare l'aspetto del nostro territorio 1.000, 100.000, 1.000.000, 100 milioni di anni fa senza alcuna limitazione e scoprire le forme antiche di tutto ciò che noi oggi vediamo, montagne, valli, fiumi, eccetera. Ciao. In modo anche da verificare che tutto ciò che vediamo e che appare fermo ed immutabile in verità subisce delle modificazioni nel corso del tempo. Voi siete in piedi lì così? Possiamo prendere delle sedie? Sì, se riuscite in qualche modo a sistemare. Magari una fila avanti, lo so che è troppo vicino, però se riuscite a mettere le sedie davanti sarebbe bello. Se riuscite, se volete vi passo. Perché guardi. Cosa? Perché qua basta. Basta? Siamo al limite del. Ah, proprio per. Sì, no, è una questione. Per qui deve passare. Io posso mettere anche una. la sicurezza, sì. Vogliamo fare... No, la sicurezza. C'è bisogno ancora? Dai, guarda, io la prendo. Se fondo che diciamo se ha bisogno di no, ma sta sotto, mi sa che mi serve. C'è un proiettore qua? No, non c'è problema, il proiettore è sopra. Che faccio? Vado avanti? Sì, se si vuole sedere lì. Esatto. Guida. Subito. Ciao Andrea. Faccio la presentazione già fatta? No. La fatta purtroppo è arrivata. Già fatta troppo. È tanta gente che ci sono. Cavolo, che bello. Vabbè, allora. Ah, cioè. Meglio che vada avanti perché... Ecco, quindi stavo dicendo di questa mia passione per i viaggi nel tempo, eccetera. C'è da dire anche che le disquisizioni dei fisici, degli scienziati, non negano la possibilità di viaggiare nel tempo. E quindi, ecco, io mi sono preso appunto questa libertà, ho dato spazio un po' alla fantasia e ho immaginato questo viaggio nel tempo, nella preistoria del Trentino Alto Adige. C'è anche da dire che mi piacerebbe che questo libro servisse a sfatare miti e luoghi comuni che sono in ognuno di noi. Per il turista, per esempio, che giunge in una località dolomitica ed ammira la bellezza del paesaggio, oppure per un alpinista che giunge in cima ad una vetta e contempla le Dolomiti, eccetera, può essere difficile capire quali e quanto estese nel tempo siano le vicende che hanno portato alla formazione delle rocce, delle valli e delle montagne, eccetera. Ecco, infatti molti ignorano che la particolare conformazione del nostro territorio è solo un'istantanea di un processo inarrestabile. È praticamente il fotogramma, noi vediamo uno dei tanti fotogrammi di un film che è iniziato nell'era archeozoica, come vedete qui, e che prosegue tutt'oggi. Scusa, non serve meglio spegnere la luce? Sì, non so. Sì, forse è meglio, sì, scusate, io stavo guardando sul PC, quindi. Ecco, quindi stavo parlando di un filmato, praticamente di un fotogramma, di un filmato che dura da tempi lunghissimi, e qui abbiamo un'idea di cosa si intende quando si parla di tempi lunghissimi. Questa tabellina riassume un po' così rapidamente e sinteticamente quella che è la storia della Terra. Ecco, la prima era l'era archeozoica, il primo periodo dell'era archeozoica risale a 4.500 milioni di anni fa, ovvero 4,5 miliardi di anni. Ecco, allora andiamo a vedere un po' quali sono le forze, appunto, che modificano il territorio. Per esempio qui abbiamo un fenomeno di carsismo. Ecco, questo è l'autore, questo è il fotografo che mi ha concesso molte delle foto che vedrete stasera. Questo è appunto è il fenomeno del carsismo, le fessure nelle rocce vengono pian piano allargate dall'acidità contenuta nell'acqua e quindi pian piano il paesaggio si modifica. Ecco, questo è uno dei fotogrammi. Se noi potessimo viaggiare nel tempo vedremo appunto queste fessure, queste fratture allargarsi gradualmente fino a portare alla completa sparizione della roccia. Ecco un altro esempio, un ghiaione ai piedi di una delle tante vette dolomitiche. In questo caso parliamo proprio di disgregazione della roccia ad opera di vari agenti atmosferici, vento, acqua, neve, ghiaccio, eccetera. Ecco, questa foto, il Monte Cristallo, chiedo conferma al signor Cassina. Ecco, questa foto per me è emblematica perché abbiamo la potenza di questa montagna dolomitica con formazioni rocciose spesse, potenti, diverse, migliaia di metri, e poi questo spuntone, questo moncone che indica quale sarà la fine che farà anche questa montagna. Sembra quasi un monito abbastanza inquietante. Ecco, tu farai questa fine, e questo ovviamente comunque nel corso di diversi milioni di anni. Altro esempio di erosione, qui siamo nella zona del Corno Bianco. Questa montagna è stata letteralmente mangiata e ovviamente continuerà ad essere erosa nel corso delle prossime migliaia, centinaia di migliaia di anni. Alla base di questa cima, c'è di questo rilievo, c'è poi il famoso Butterlock, il buco di burro di cui poi parleremo. Ecco, altre immagini che ci fanno vedere come l'erosione lavori e continui a disgregare e a dare vita anche a queste forme abbastanza bizzarre come questi pinnacoli. O questi blocchi che sembrano quasi sospesi, che sembrano lì sul punto di cadere. Ecco, c'è da dire tra l'altro che si parlava appunto di questo fotogramma, i fotogrammi successivi di questa storia, della morfologia, della forma di montagne, valli, eccetera, prevederà appunto nuove erosioni, ma anche una continua crescita delle montagne, perché le nostre Alpi sono comunque il processo orogenetico, ovvero il processo di costruzione di queste montagne è ancora in essere, e quindi ci possiamo aspettare nei prossimi milioni di anni nuove forme. Per adesso possiamo solo immaginare. Ecco, c'è da dire che spesso una corretta concezione del tempo geologico e della sua immensità è compromessa da pregiudizi e da false informazioni diffuse dai media. Così può capitare di vedere i dinosauri combattere con i nostri progenitori, ok? I dinosauri, ricordiamolo, si estinsero alla fine dell'era mesozoica, quindi alla fine del Cretaceo, quindi circa 65 milioni di anni fa. I nostri progenitori, Neanderthal eccetera, vivevano poche decine, poche centinaia di migliaia di anni fa. Oppure può capitare di sentir parlare dell'Oceano Atlantico, della sua apertura. Nel Mesozoico si aprì l'Oceano Atlantico. Qualcuno nell'era Mesozoica si aprì l'Oceano Atlantico e il continente americano fu separato dal continente europeo. Qualcuno può pensare che questo si possa essere dovuto ad un cataclisma che in una notte ha aperto l'oceano, eccetera. Ecco, questi sono processi che si svolgono nel corso di milioni e milioni di anni. Direi che questo è un atteggiamento molto umano, quello di cercare di rapportare la storia della Terra a quella dell'umanità, quindi ragionando in termini di secoli o di migliaia di anni. Ho quindi pensato che il racconto di un immaginario viaggio nel tempo, nel quale venga sempre espressamente riportata la collocazione temporale degli eventi, possa aiutare il lettore ad avere una corretta visione dei tempi geologici. Ecco, quindi questi riferimenti alle epoche, alle ere, eccetera, sono ricorrenti nel mio libro. Ecco, c'è da dire che nel panorama della lettura della letteratura scientifica esistono già un gran numero di libri e di pubblicazioni che coprono abbondantemente la richiesta di conoscenze in fatto di geologia, paleontologia, eccetera. E, tra l'altro, in questi ultimi anni ci si è messo anche internet con pubblicazioni specialistiche, con tesi universitarie pubblicate in rete, o come questo blog, che è uno dei tanti blog di appassionati che mettono le loro conoscenze in rete. Questa persona è un mio conoscente virtuale, fra virgolette, io non l'ho mai visto di persona, però abbiamo un rapporto via email. È un laureato in geologia che ha questo interessantissimo blog, dal quale io traggo tra l'altro molte informazioni. Ecco, quindi direi che l'offerta è vastissima. Quindi io ho cercato di presentare l'argomento con un taglio un po' diverso, meno nozionistico, forse per questo più accessibile e assimilabile a chi non ha conoscenze specifiche nel settore. Ecco, così io cosa ho fatto? Ho immaginato un futuro nemmeno troppo lontano, il 25° secolo, in cui è stata finalmente raggiunta la tecnologia necessaria per poter costruire una macchina del tempo. Questa macchina del tempo viene affidata a tre persone, uno scienziato, un coordinatore ed un pilota, che sono poi appunto i protagonisti di questo racconto. Nel corso del viaggio temporale però succede una cosa un po' particolare: questo scienziato perde un po' la testa, avendo a disposizione un gioiellino del genere con il quale potersi muovere a piacimento nelle aree geologiche, ecco, e lo porta appunto a fare un po' di testa sua e disattendendo gli accordi presi durante la pianificazione della missione, e quindi i tre protagonisti si trovano a vivere tutta una serie di avventure. Ecco, io ritengo che questo approccio possa in qualche modo forse anche stimolare un po' la curiosità, così, e soprattutto appassionare i giovani. A me piacerebbe questo. Torniamo alla nostra tabellina con le varie ere, i periodi, le epoche, eccetera, perché dobbiamo, prima di raccontare un po' che cosa succede nel mio libro, dobbiamo prendere un po' più di confidenza con, appunto, con la storia geologica del pianeta Terra. Io direi che se noi guardiamo questi numeri, proviamo forse, almeno personalmente io provo anche quasi un senso di angoscia, no? Perché sono miliardi, si parla di miliardi di anni. Tra l'altro, durante tutta l'era archeozoica, che dura gran parte della storia della Terra, perché se vedete in questa parte bassa, io non so se riuscite tutti a vedere, io ho riportato in proporzione la durata delle varie ere. Ecco, la parte rossa è la durata dell'era archeozoica. Quindi l'era archeozoica, che è quella più antica, occupa, così a occhio direi, oltre il 90% di tutta la storia della Terra, ed è un'era in cui appunto il pianeta era disabitato, o comunque cominciavano solamente a svilupparsi le prime forme di vita semplicissime come i batteri, e di cui appunto abbiamo ben poche conoscenze. Le prime forme di vita complesse compaiono con l'inizio dell'era paleozoica, e quindi 544 milioni di anni fa circa. Un periodo molto importante della storia della Terra è il Devoniano, in cui appunto cominciano a diffondersi anche i pesci, e successivamente, al termine del Devoniano, i pesci in qualche modo trovano la possibilità di adattarsi alla vita terrestre, quindi poi comincia l'era dei rettili, l'era mesozoica, l'era dei rettili, dei grandi dinosauri. Il mesozoico dura 180 milioni di anni, quindi dopo tutto sì, è un'era molto conosciuta, eccetera, di cui si è molto parlato, perché appunto dominata da questi grandi bestioni che erano i dinosauri, però dopo tutto è durata, fra virgolette, solamente 180 milioni di anni. E nel contempo inizia un movimento dei continenti che porterà pian piano alla disposizione attuale. Con la fine del Cretaceo, che è l'ultimo periodo dell'era mesozoica, i dinosauri si estinguono, subentrano in qualche modo i mammiferi che cominciano a colonizzare tutti gli habitat lasciati liberi dai dinosauri. Siamo quindi nell'era cenozoica, che è quella in cui viviamo attualmente. L'era cenozoica, l'ultimissima parte dell'era cenozoica, vede l'avvento dell'uomo, l'apparizione dell'uomo e le ere glaciali, di cui poi parleremo. Ecco, ripeto, appunto, questi sono all'interno di questa tabella, abbiamo tutta una serie di infinita di fotogrammi. I nostri protagonisti, grazie al viaggio del tempo, potranno visitare alcuni di questi fotogrammi, alcune le tappe fondamentali, diciamo, della storia della vita della Terra. Ecco, prima di passare ad una breve presentazione del racconto, conviene anche rinfrescare alcuni concetti così di geologia. Si dice che la Terra sia un pianeta vivo, effettivamente la Terra ospita una miriade di forme animali e vegetali, però la Terra, anche la superficie della Terra è viva, si muove, cambia, ci sono i vulcani, ci sono i terremoti, le rocce che la compongono vengono generate, vengono modellate e successivamente vengono anche distrutte, come abbiamo visto. Il paesaggio quindi non è mai uguale a se stesso. La Terra è viva anche al suo interno. Il nucleo della Terra a migliaia di chilometri di profondità è molto caldo, si parla di migliaia di gradi. E questo calore in qualche modo genera il movimento delle zolle terrestri. Si parla infatti di tettonica a placche per spiegare il fatto appunto che i continenti si muovono, si trovano su placche della crosta terrestre, si muovono, cambiano la loro disposizione nel tempo e questi movimenti portano a collidere alcune placche, quindi a formare catene montuose, ad allontanare altre placche e quindi a dare vita agli oceani. Ecco, puntiamo l'attenzione su questa fascia, su questa zona della Terra, del nucleo terrestre, questa contraddistinta dal numero 5, perché è una zona che si chiama astenosfera, che è una zona semifluida che trasmette appunto il calore dell'interno della Terra e genera una serie di movimenti tipo le bolle, il liquido in ebollizione che abbiamo in una pentola, una normale pentola nella quale facciamo la pasta. Ecco, ovviamente questi movimenti nella astenosfera avvengono, sono infinitamente più lenti, però il principio è lo stesso. Ecco, quindi questi movimenti in qualche modo giungono poi in superficie e muovono le zolle. Come dicevamo, le zolle sollecitate da questi movimenti si spostano, in alcuni punti si scontrano e generano catene montuose, in altre si allontanano e quindi danno origine agli oceani. Ecco, queste foto che mi ha concesso il signor Cassina durante il suo viaggio in Islanda mostrano appunto un territorio, l'Islanda, in cui questi movimenti sono più che evidenti, proprio perché l'Islanda si trova al confine tra due zolle, quella americana e quella euroasiatica. Ecco, qui proprio stiamo assistendo alla fratturazione della crosta terrestre e quindi al futuro, alla futura nascita di nuovi oceani e nuovi continenti. Ecco, questa è una faglia che ormai si è allargata molto, cioè una spaccatura nella crosta terrestre. Qui siamo sempre in Islanda. Addirittura questa faglia ha catturato un fiume e quindi a questo punto il fiume scorre in questa faglia. Queste sono immagini molto spettacolari. Qui ci sono delle persone sul bordo di questa faglia che osservano lo spettacolo. Ecco, dicevo, possiamo adesso un attimino seguire quella che è la storia del mio libro. La cosa che vi può sembrare particolare è che io faccio iniziare il viaggio nel tempo, pongo come prima tappa del viaggio nel tempo un periodo risalente a circa 300 milioni di anni fa. Ecco, la cosa può sembrare strana appunto perché, come vediamo, la storia della Terra conta periodi ben più remoti. Io ho scelto questa collocazione proprio perché se io avessi scelto periodi precedenti mi sarebbero mancati riferimenti e conoscenze precise per fornire un'idea sufficientemente aderente alla realtà. Quindi ho voluto basarmi su quelle che sono le più recenti scoperte e studi in campo paleontologico e geologico. Se avessi voluto risalire più indietro, ecco, avrei dovuto basarmi un po' troppo forse sulla fantasia e questo non era il mio obiettivo. Quindi la prima tappa del viaggio nel tempo è collocata 300 milioni di anni fa, quindi in pieno Permiano, l'ultimo periodo dell'era paleozoica. Nel Permiano esisteva un unico supercontinente, io qui ho preparato, ho abbozzato così una ricostruzione, la Pangea, circondato da un altrettanto colossale oceano, quindi questo era l'aspetto della superficie terrestre al termine del Permiano, quindi non esistevano certo i continenti come noi li conosciamo. Ecco, subito i protagonisti si trovano ad avere a che fare con delle situazioni un po' particolari. Beh, per esempio l'incontro con insetti e rettili molto diversi da quelli che noi conosciamo. Ad esempio l'incontro con una meganeura, che è un'enorme libellula che aveva colonizzato quei territori. Il passato della Terra presenta altri aspetti sconcertanti. Per esempio il fatto che la composizione della Terra, dell'atmosfera terrestre era un po' diversa e questo poteva portare ad un'atmosfera un po' particolare permeata da questa luce violetta, quindi una diversa diffusione della luce solare, oppure una diversa durata del giorno. Nel Permiano la rotazione della Terra attorno al proprio asse avveniva ad una velocità decisamente superiore a quella attuale e quindi la giornata era di solamente 16 ore, quindi i nostri protagonisti a un certo punto si trovano con una sorpresa perché vedono tramontare il sole molto prima di quello che loro potessero aspettarsi, ma grazie al tramonto del sole possono anche osservare una volta stellata del tutto diversa da quella che noi conosciamo, proprio perché 300 milioni di anni fa la posizione della Terra nel cosmo era molto diversa da quella attuale e quindi ovviamente anche costellazioni, galassie eccetera erano ben diverse da quelle che noi siamo abituati ad osservare durante la notte. Il primo evento forte di cui i nostri protagonisti appunto sono testimoni è una grande fase eruttiva, quindi qua comincia un po' quella che è la formazione delle varie delle varie rocce che poi caratterizzano il nostro territorio al giorno d'oggi. Ecco, appunto alla fine del Permiano abbiamo grandi eruzioni vulcaniche proprio centrate nel territorio che in futuro sarà appunto il Trentino Alto Adige, eruzioni così grandi che non si avranno mai più, non se ne avranno mai più di simili in tutto il resto della storia europea. Ecco, queste eruzioni, il risultato, il prodotto di queste eruzioni le vediamo ancora oggi. Questo per esempio è il Monte di Mezzo, è la scarpata del Monte di Mezzo, appunto, che separa l'Oltradige dalla Bassa Tesina. Praticamente noi arriviamo a questi strapiombi partendo dai boschi di Monticolo. E queste strutture colonnari sono proprio dovute al rapido raffreddamento della lava che era fuoriuscita appunto da questi vulcani. Tra l'altro questi grandi tavolati di porfido che esistono ancora oggi danno origine a queste strutture appunto tabulari delimitate da questi strapiombi che poi danno sulle valli circostanti. Questa per esempio è una foto ripresa più o meno dalla zona del lago Güller, nella zona di Aldino. In quel periodo appunto nel Permiano quindi il nostro territorio era praticamente invivibile. Questa è un'immagine attuale, questa è un'immagine ripresa dal signor Cassina in Islanda, ecco questi vulcani, questo paesaggio. E questa è la Valdega, adesso questa parte qui probabilmente no, questa forse ancora è percorribile. La Valdega è proprio un'incisione, il torrente Ega ha proprio inciso questi porfidi paleozoici, questi porfidi permiani, e ha creato questo spettacolare canyon che è molto famoso tra i geologi. Ecco, un altro evento particolare che i nostri protagonisti si trovano ad affrontare è quello dell'arrivo del mare della Tetide, dell'apertura di questo mare, di questo oceano di cui parlavo prima, che pian piano si inoltra nel nostro territorio e quindi dà il via a quella fase di costruzione vera e propria delle Dolomiti. Ecco, la storia delle Dolomiti inizia proprio con l'avanzare di questo mare. Infatti le Dolomiti sono costituite più che altro da depositi marini. Non mancano i nostri protagonisti, i nostri eroi sicuramente, di visitare quello che sarà il futuro, la futura zona del Butterloch, appunto questo canyon che si è venuto a creare nelle ultime migliaia di anni e che ha portato alla luce rocce che risalgono proprio a quei periodi, quindi rocce permiane, quindi porfidi, ma anche rocce di formazione successiva, quindi le rocce che si formarono nella Tetide. Ecco, io consiglio assolutamente appunto una gita, un'escursione, tra l'altro anche abbastanza semplice, in questa forra, perché appunto risalendola si può fare un vero e proprio viaggio nel tempo, quindi possiamo partire dai porfidi del Permiano eccetera e poi osservare altre formazioni. Ecco, questa bianca in cima è la Dolomia. Ecco, come in un libro abbiamo tante pagine, ecco anche qui abbiamo tutta una serie di formazioni che si sovrappongono e grazie alle quali possiamo guardare un po' quella che è la storia della Terra in quel periodo. Questi sono porfidi e arenarie. Ecco, ecco, adesso forse vi stupirà un po' questa immagine, cosa c'entra l'astronomia. Beh, c'è da dire che nel libro io descrivo anche, cerco di descrivere la grande estinzione che si è verificata al confine, al passaggio tra l'era paleozoica e l'era mesozoica. Una grande estinzione di cui si parla poco, direi molto più importante di quella dei dinosauri, di cui si parla e si romanza molto di più. Ecco, io ipotizzo appunto che alla base di questa estinzione, che fece sparire dalla Terra circa l'85% di tutte le specie viventi, ipotizzo alla base di questa estinzione l'esplosione di una supernova, una teoria scientifica, nulla di inventato, l'esplosione di una supernova nei pressi della Terra, che appunto ha irradiato la Terra con un gran numero di radiazioni ionizzanti, quindi ad alta energia, e che quindi ha sterminato gran parte delle specie viventi. Questa è un'immagine, per chi è appassionato di astronomia, un'immagine molto famosa. Questa è la nebulosa del Granchio. Questa è proprio un'enorme esplosione, una stella che è gigante, che è esplosa e che ha sparato nello spazio a velocità vertiginose una gran massa di gas e materia stellare ultra incandescente, quindi ovviamente tutto ciò che si dovesse trovare sul suo cammino ne verrebbe sicuramente influenzata. Ecco, al termine di questa estinzione ovviamente ricomincia la diffusione della vita sulla Terra. E questa è una delle tappe dei protagonisti del libro. Qui siamo già entrati nell'era mesozoica e questo è l'aspetto del territorio che ospiterà, dopo diverse decine, centinaia di milioni di anni, la zona di Bolzano. Ecco, Bolzano una volta, possiamo dire, era una grande zona tropicale in cui appunto prosperava una fauna e una flora non certo simile a quella attuale. Ecco, e quindi comincia così la formazione appunto di tutte quelle che sono i vari tipi di dolomia che costituiscono le nostre montagne. Ecco, quindi le nostre le Dolomiti si sono formate in questo contesto. Quello che rimane oggi di quelle grandi scogliere di corallo, accumuli di residui, di gasteropodi, eccetera, di vari molluschi e di alghe, sono queste grandi bancate, sono queste grandi pareti verticali, appunto. Questo ne è un esempio e questo è un altro. Questa è la base, questa foto è stata scattata dalla base del Monte Macaion. Ecco, questi sono accumuli di alghe, coralli, eccetera. Difficile immaginarselo, eppure è così. Ecco, queste scarpate probabilmente poi davano sul mare profondo e poi con una fase successiva che vedremo tra un attimo, sono state portate a livello, ad altitudini ben maggiori di quello che è il livello del mare. Ecco, c'è da dire che è sbagliato definire le Dolomiti i monti di corallo, come si sente dire, perché sì, effettivamente in parte sono costituite anche dai resti di questi, dagli scheletri di questi coralli, ma le Dolomiti devono la loro formazione anche a tutta un'altra serie di specie animali e vegetali che prosperavano appunto sul fondo di questo mare: gasteropodi, stelle di mare, ricci, eccetera. Ecco, torniamo alla nostra tabellina che ci riassume un po' quello che è la storia della Terra, per dire che appunto la storia delle Dolomiti, abbiamo visto, inizia più o meno con l'iniziare del Triassico, con i vari periodi. Ovviamente sarebbe un po' noioso, sarebbe un po' troppo complesso elencare tutte le formazioni dolomitiche che si sono venute a creare nel corso di questi milioni, nel corso dei milioni di anni. Ogni formazione dolomitica ha un suo nome. Ricordiamo per esempio la Dolomia dello Sciliar. Questa foto è stata presa nel... queste sono le tre cime del Violet. Questa è la sommità dello Sciliar, da cui appunto prende nome anche questo particolare tipo di Dolomia. E questo è il catinaccio, anch'esso composto da Dolomia dello Sciliar. Questa foto direi che è anche molto bella. Ecco, poi ci sono alcune zone delle Dolomiti che non sono composte di Dolomia ma di calcare. Comunque la Dolomia deriva dal calcare. Ci sono alcune zone che non hanno subito il processo di dolomitizzazione. Questo per esempio è il Latemar. Si vede tra l'altro come vari strati si succedano l'uno sull'altro. Queste erano proprio queste bancate, queste colonie di coralli, di spugne e di altri animali che vivevano nel mare della Tetide e che si sovrappongono man mano l'uno sull'altro. Poi ovviamente l'erosione ha portato alla luce e ha in qualche modo modellato queste montagne e ha dato quell'aspetto che tutti conosciamo. Ecco, questa per esempio invece è la Tofana di Rhodes. Tofana di mezzo e di fuori. Il gruppo delle Tofane invece è costituito da Dolomia principale. La Dolomia principale è un altro tipo di Dolomia, diversa dalla Dolomia dello Sciliar. Tra l'altro, tra le due formazioni intercorrono diversi milioni di anni. Ripeto, appunto, la storia delle Dolomiti si compone di diverse decine di milioni di anni. Quindi la roccia che costituisce lo Sciliar non è la stessa, appunto, per esempio, che costituisce le Tofane. Tra le due abbiamo appunto una differenza di diversi milioni di anni. E tra l'altro appunto non v'ho detto forse che sì, l'ho detto, la Dolomia, le Tofane sono costituite di Dolomia principale, che è la Dolomia che tutti conosciamo, che è sicuramente la più famosa, e che non è costituita così come la Dolomia dello Sciliar e tante altre formazioni rocciose dolomitiche, da un alternarsi, da uno stratificarsi di colonie, di coralli, eccetera. Va da una successione di questi tappeti di alghe. E quindi questa foto che è stata presa in Sardegna, che è stata scattata in Sardegna, ricostruisce un po' quello che era l'ambiente di formazione della Dolomia principale. Ecco, tutta una serie di questi tappeti di alghe, stromatoliti in termine tecnico, che si sovrapponevano uno sull'altro, poi magari c'era un'ingressione del mare, quindi un'entrata, un avanzamento del mare dovuta a maree, oppure dovuta a burrasche, oppure dovuta a fenomeni meteorologici o geologici. E quindi c'era un alternarsi ciclico di questi accumuli di tappeti di alghe e di altri depositi marini che hanno portato poi alla formazione di queste potentissime bancate di Dolomia di spessore anche di migliaia di metri. Ovviamente tutto questo sempre nell'arco di diverse decine di milioni di anni. E sempre nel Mesozoico abbiamo anche una fase molto importante per le Dolomiti, nel periodo chiamato Ladinico, in cui appunto abbiamo altre eruzioni vulcaniche Ecco, questa è la foto di Stromboli e le isole Eolie, e appunto nell'Adinico, in questo particolare periodo dell'era mesozoica, il paesaggio dolomitico, anche la zona attorno a Bolzano, doveva avere più o meno questo aspetto, queste montagne, questi vulcani che emergevano dal mare. E questa fase, sia pur molto breve in termini geologici, perché è durata, sembra, solo 500.000 anni, quindi stiamo parlando di noccioline veramente, ha portato appunto all'alternarsi di rocce bianche, le Dolomie, e di rocce vulcaniche, e questo appunto ha dato quel tocco molto particolare alle Dolomiti, che è famoso in tutto il mondo. Tra l'altro le rocce vulcaniche sono molto più attaccabili dagli agenti atmosferici, erosivi, eccetera, e quindi danno di solito origine a pendii molto dolci, invece le rocce dolomitiche sono più resistenti e danno invece magari spesso origine, danno vita a queste profonde, queste pareti verticali. Ecco, sempre nel periodo dell'era mesozoica, durante la quale si formarono appunto le Dolomiti, in questi ambienti ospitavano anche delle specie, delle forme animali. Ovviamente, essendo nel mesozoico, non potevano essere che dinosauri, che erano i dominatori di quelle epoche. Ecco, questa è una foto ritratta alla base del Monte Pelmetto, nel Bellunese, e che dimostra appunto, queste sono le orme, come vedete, indicano proprio il passaggio, in questo caso di un rettile carnivoro che camminava su queste superfici fangose e che andava alla ricerca probabilmente di cibo. E per un pelo anche i protagonisti del viaggio nel tempo diventano cibo per questo ceratosauro, con il quale appunto i tre eroi hanno un incontro inaspettato e indesiderato. E quindi appunto io immagino un'escursione in queste piane di marea, in cui appunto si formava la Dolomia, e questo incontro inaspettato, improvviso, col ceratosauro, una fuga. Ovviamente si mettono in salvo, altrimenti avrei dovuto chiudere il libro. Ecco, c'è da dire che da Bolzano non si possono, né dai monti circostanti, non si possono osservare formazioni rocciose successive alla fine del Triassico, ovvero della prima parte dell'era mesozoica. Ecco, questa è una foto della conca di Bolzano. Tutte le rocce che noi vediamo da Bolzano e dintorni hanno quindi almeno 200 milioni di anni. Tutte le rocce successive che si sono formate nella Tetide, eccetera, sono state asportate, sono state disgregate, sono state allontanate, disciolte, eccetera, prima del nostro arrivo. Quindi noi possiamo vedere solo formazioni rocciose molto antiche. Ecco, successivamente il mare della Tetide, nel periodo giurassico, siamo sempre nell'era mesozoica, prende il sopravvento, copre un po' tutto. Queste sono formazioni squisitamente marine, queste sono strati di calcare che si sono depositati sicuramente in mare, e quindi anche tutta la regione dolomitica viene coperta dal mare, anche se effettivamente alcune zone dovevano essere emerse, perché forse alcuni di voi sapranno che nella zona di Rovereto, più precisamente alla base del Monte Zunia, c'è un luogo di ritrovamento di molte impronte di dinosauri che risalgono proprio alla prima parte del Giurassico. Quindi, contrariamente a quello che si pensava fino a pochi decenni, ma potrei anche dire pochi anni fa, il mare della Tetide, il mare giurassico, non copriva tutto il nostro territorio, quindi c'è la speranza di rintracciare, di trovare ulteriori tracce del passaggio di questi grandi bestioni che hanno dominato per 180 milioni di anni la storia della Terra. Ecco, come detto, appunto, siamo in una fase prettamente marina, però, e quindi questo è un altro esempio, questo è un bellissimo cespo di corallo, siamo in una fase marina, però alla fine succede qualcos'altro, alla fine del Cretaceo, quindi dell'ultimo periodo dell'era mesozoica, la disposizione delle zolle fa sì che inizino a sollevarsi le Alpi. Ecco, questo è un processo che, grazie ad un viaggio nel tempo molto accelerato, i tre protagonisti possono godere in tutta tranquillità, e quindi possono godersi, appunto, io immagino nel libro, nel racconto, do la possibilità a queste persone di poter assistere al movimento delle zolle e al sollevamento delle Alpi, e quindi anche della zona dolomitica. Il processo di formazione delle Alpi è stato un evento, direi, molto in qualche modo anche traumatico, perché ovviamente il fondale marino è stato sollevato in determinate zone anche di centinaia se non migliaia di metri, questo ovviamente sempre nell'arco di milioni di anni. Si tratta comunque di un evento piuttosto importante. Ecco, io vi propongo questa foto perché questa foto dimostra come diverse zone, anche adiacenti, vennero sollevate in maniera differente. Qui abbiamo una montagna costituita da dolomia, quindi da una formazione rocciosa che dovrebbe essere successiva al porfido, che costituisce questa montagna, eppure queste due montagne si trovano più o meno alla stessa altezza. Questo perché questa zona, questo blocco è stato sollevato molto più intensamente di questa parte adiacente. Qui infatti corre una faglia, la linea di Trodena si chiama. Ecco, quindi possiamo immaginare quali forze abbiano potuto portare un blocco di porfido, in questo caso, che era sotto le formazioni triassiche, giurassiche, quindi calcare, eccetera, dolomie, è stato portato appunto a migliaia di metri di altezza. Queste sono il Corno Nero e il Corno Bianco, sono montagne che sicuramente conoscete. Ecco, un altro esempio di cosa può aver prodotto l'orogenesi alpina, oppure, ovvero il processo di formazione delle nostre montagne. Guardate questi strati di calcare che un tempo erano orizzontali o suborizzontali, perché si sono formate sul fondo di un mare, sono state piegati, addirittura in certi punti accavallati l'uno sull'altro. Ecco, siamo giunti a una fase molto, diciamo, una tappa del viaggio molto vicina a quello che è il nostro tempo. Infatti una sosta che faccio fare ai protagonisti del mio libro è nel miocene circa 7 milioni di anni fa. Possono sembrare un periodo di tempo piuttosto relativamente breve. E infatti i nostri protagonisti si trovano ad avere a che fare con un paesaggio che è molto simile a quello attuale, però ci sono ancora delle particolarità, degli aspetti quasi sconcertanti, per esempio il fiume Adige, che non passa per Bolzano, ma... Aspettiamo che rispondano alle varie... Dicevo, il fiume Adige, che è una sosta appunto nel miocene, che è questo periodo qui, alla fine del miocene, circa 7 milioni di anni fa. I nostri protagonisti in qualche modo riconoscono quello che è il territorio di Bolzano, ma scoprono anche aspetti molto particolari, per esempio il fiume Adige che scorre attraverso l'Oltre Adige e che poi va a sfociare nel Garda. Il Garda stesso che è collegato al mare, perché la pianura padana ancora non esiste. Ecco, io quindi, basandomi un po' su quelli che sono gli studi e le rilevazioni degli scienziati, dei geologi, eccetera, ho potuto ricostruire un po' questi aspetti. E quindi, per esempio, la totale assenza della pianura padana. L'Italia miocenica era formata semplicemente dall'ossatura delle Alpi e da alcune vette dell'Appennino che si elevavano dal mare, tutto il resto era ancora sommerso. La più grande sorpresa però del viaggio nel tempo accade proprio all'ultimo momento, in un certo senso, negli ultimi 20.000 anni. Quindi 20.000 anni fa, con le glaciazioni. Ecco, le glaciazioni sono, diciamo, l'evento che ha dato al territorio alpino dolomitico l'aspetto che noi conosciamo. Le glaciazioni sono degli eventi appunto che si sono verificati negli ultimi circa 2 milioni di anni. Ci sono stati diversi eventi glaciali, si parla di 6 o anche più eventi glaciali distinti. Quindi attualmente questa è la situazione dei ghiacciai. Questo è un ghiacciaio in Val Venosta, in Val Martello, Val di Lasa. Ma 20.000 anni fa la situazione doveva essere ben diversa. Questo poteva essere un normale paesaggio estivo su uno dei rilievi circostanti la valle dell'Adige. Ecco, vi propongo anche questa foto che è molto bella. Ecco, questo potrebbe dare un po' l'idea di quello che era il paesaggio nell'era glaciale. E ripeto, io sto parlando di 20.000 anni fa, abbiamo finora parlato di decine di milioni o centinaia di milioni, miliardi di anni, quindi ci stiamo parlando proprio di bruscolini. Eppure, appunto, ripeto, l'evento glaciale, gli eventi glaciali hanno dato proprio al nostro territorio l'impronta ultima che ha dato l'aspetto finale. E infatti ecco qui l'esempio di una valle glaciale che fino a poche migliaia di anni fa era occupata dai ghiacci. Si vede bene da questa forma, da questa forma a U. Le valli fluviali invece hanno una forma più a V. Ecco, tracce del passaggio glaciale appunto si hanno in montagna, ma anche in pianura. Questa è la zona di Ora, Castelfeder. Vedete queste rocce montonate, sono state appunto lisciate dal passaggio glaciale di poche migliaia, di 10-15 mila anni fa. Questo è un altro esempio, questa è una foto che ha scattato mio padre e che forse identifica una vecchia, un'antica valle glaciale pensile, quindi un ghiacciaio che sfociava, questa è stata scattata sopra mezzo corona, la forma ricorda effettivamente proprio una valle glaciale pensile e quindi un ghiacciaio che sfociava in qualche modo, che precipitava poi verso il fondovalle e che ha dato questa forma. Questa è una mia ipotesi, non posso portare prove suffragate da esperti autorevoli, però direi che l'aspetto è proprio quello. Ecco, ma forme glaciali le abbiamo anche in aree meno ci si aspetterebbe. Per esempio questa è una falesia, quindi questa parete così verticale modellata dai ghiacciai nella zona del lago di Garda. I ghiacciai arrivavano a sfociare fino in pianura padana, quindi immaginiamoci qual era la potenza di queste masse di ghiaccio. Ecco, questa è una foto che ho scattato poche settimane fa. Chi ha portato questo masso di granito a questa altitudine? Se le montagne attorno al Garda sono costituite di più che altro di calcare, questo è molto probabilmente un masso erratico, ovvero uno di quei massi spostati appunto dai ghiacci pleistocenici, perché l'ultimo periodo glaciale chiamato Pleistocene, e che poi appunto ha depositato in questa zona. Ecco, l'ultima tappa di questo viaggio è l'uomo con i suoi modellamenti. Ok? Io adesso qua vi propongo due esempi, uno edificante in qualche modo, quindi la bonifica del fondovalle, eccetera, la suddivisione in campi coltivati, eccetera, ed uno assolutamente deleterio. Ecco, l'uomo sta accelerando questo processo di modifica del territorio, di erosione, eccetera. Guardate questo scempio sulla pala di Santa, ecco, strade o piste da sci, non lo so, non mi interessa, comunque in qualche modo anche l'uomo sta riuscendo a mettere lo zampino, okay? Sta facendo concorrenza alle forze della natura. Ecco, e quindi giungiamo all'ultima tappa, che è il presente, con questa bella immagine di Bolzano ripresa dal gruppo del Catinaccio. Questo però, ripeto, è solamente uno dei tanti fotogrammi della storia della Terra e del nostro territorio. In futuro, come detto, ci saranno occasioni per ulteriori modifiche. Grazie. Giusto, come tempo. Ciao. Sì, dai, se riusciamo. Francesco. Ma è più veloce l'orogenesi o la distruzione? Ciao Rosario, grazie. Dipende anche dal clima, dipende dal clima della zona. Dipende dal clima della zona. Ma sicuramente in questo periodo è più veloce l'erosione, perché ormai si parla di pochi millimetri anni di crescita, di tasso di crescita delle montagne, insomma. Mi fai vedere una copia del tuo libro? Posso vederla? Guarda, io ne ho messe un paio lì, due, tre, non so se. Quanto che viene? Come? Quanto viene? No, non viene niente. No, non viene niente. Non è in vendita, non è in vendita. Non ho trovato l'editore, cioè. Ah, non hai trovato l'editore. Sì, ma tutto questo bel discorso non è in vendita. Non è in vendita, non ho trovato un editore, forse non sono rimasto un po' scoraggiato anche da certe esperienze, grazie, e quindi ho lasciato perdere. Guardi, ma sarebbe questo? Sul mio sito si può trovare, sul mio sito si può trovare. Se volete vi faccio vedere, vediamo se riesco a collegarmi. Oh mamma mia, non si può scaricare sul mio sito. Si può scaricare? Sì. Allora, come si è trovato con i fascicoli di Martina? Peccato. Non sono ancora andato perché devo andare a prendere i dati. Beh, guardi, io le posso scrivere. No. Se vuole prendere nota, io adesso le scrivo lì l'indirizzo del mio sito. Sì. Costa lunga. Dove può trovare? Da buona. Sono andato e non aveva problemi. E poi non sono più tornato. Lei mi aveva chiesto della Vaglunti, sì, ma non c'è il nome di Vaglunti. Lei mi ha mandato. Sì. Sì. Ciao Marco, peccato, grazie, salve, saluti. Adesso io metto un indirizzo dove riesco a scaricare. Dopo tutto sto lavoro. Al mio sito. www.marcobonatti. Adesso guarda, te lo scrivo lì. Dopo te lo metto. È vero che ce ne sono tanti, però una cosa nuova, guarda, a questo indirizzo trovi sia il libro questo qui sia quello sul clima di Bruggiano, anche sul clima, sì. Hanno giocato fuori una coppia. Beh, tu hai lavorato a cena. Io li ho messi nella casetta. E comunque abbiamo giocato anche a calcio insieme. Sì, sì, no, le calcio mi ricordavo, ma non mi ricordavo. Saluti. Sì, è certo, lì piazza ospedale. Domani devo passare a perché. No, guardi, io ne avevo fatte stampare una serie, un certo numero di copie, sono anche andate. Ti prego un attimo la penna. Grazie, comunque li trova qualcuno, li trova il documento, li trova il documento, chissà, non so, non è facile, sì, no, non è facile, me ne sono reso conto, sì. Che abbia visto le vite, certo, vai, sì, può comprare. Buonanotte, l'autore. Quando io gli ho messo la strada, guarda che io ero un geologo. Ah sì, io sono un geologo. Te devi pensare, io sono un appassionato. Pensare che tra mille anni, con mille anni, quel libro mi sa che. È vero che sono proposto a prendere, quando c'era l'era glaciale, c'era una città di mille metri, quindi mi piace. Sì, questa è la stima proprio. Saluti! Ciao, grazie.